America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, una giornata nera, devo dire, quella di ieri per gli Stati Uniti d'America dal punto di vista storico. Sentiamo. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Donald Trump, l'avete sentito, ha confermato dal Giardino delle Rose, da dove in genere ascoltiamo cose dal punto di vista storico più importanti, più positive, ha annunciato che l'America si ritira dall'accordo di Parigi sull'ambiente. Il risultato immediato? 195 paesi che hanno già firmato questo accordo sono contro gli Stati Uniti. Dimentichiamo l'ambiente per un attimo e pensiamo a questo. Non era mai successo che l'America fosse così isolata nel mondo. Questo, dal punto di vista storico, devo dire, è uno sviluppo molto preoccupante. Rinegoziare, come dice Donald Trump, come ha detto nella sua dichiarazione, non se ne parla. Naturalmente non se ne parla. Lo hanno detto anche Gentiloni, Macron, la Merkel. È impossibile rimettere in gioco gli accordi. Ecco, però oggi non vorrei tornare sull'ambiente, ne abbiamo parlato ieri, perché qui c'è in gioco anche qualche cosa per il futuro dei nostri figli. Il fatto che l'America non abbia pensato al futuro dei nostri figli mi preoccupa, e devo dire troppo spesso di questi tempi del futuro dei nostri figli, un po' tutti noi non ci pensiamo. E dunque oggi 2 giugno, festa della Repubblica, e vorrei concentrarmi su questo. Ma stiamo davvero lasciando un mondo migliore ai nostri figli, a parte questa decisione di Trump? Ci sono mille cose che avvengono nel mondo che non credo siano positive per i nostri ragazzi, e dunque oggi vorrei riflettere proprio su questo. We're learning more now about the victims, the children who were killed, and the photographs of their young, excited faces before the attack are just heartbreaking. Ecco, ho ripreso un resoconto televisivo di quella che è stata la tragedia della settimana scorsa, l'attacco terroristico a Manchester, che ha prodotto che cosa? Ha prodotto soprattutto la morte di molti, molti giovani, molti teenager, addirittura una bambina di 12 anni. Ecco, come dire, nel contesto del dibattito politico, della guerra al terrorismo, si parla di tutto, si parla di pace, si parla della necessità che la NATO si mobiliti per attaccare l'ISIS. Si parla poco di questi giovani, di questi bambini, perché quando un ragazzino ha 13, 14, 15 anni è ancora un bambino. Bambini, ragazzini esposti a una violenza che non conoscono, che non capiscono. Bambini, sempre la settimana scorsa, che sono morti su un barcone in arrivo dalle coste africane. E sempre la settimana scorsa, il 25, c'è stata la giornata mondiale del bambino, in cui si è discusso di tutte le problematiche possibili, che vanno dalla pornografia su internet, alle immagini che circolano su YouTube, alla vulnerabilità di questi ragazzini davanti alle sfide del nostro tempo, sia che arrivino da internet, sia che arrivino da un attacco terroristico come quello che abbiamo avuto a Manchester. Ecco, di questo si è occupato qualche giorno fa Papa Francesco, Sua Santità Papa Francesco, in piazza San Pietro. Ha ringraziato il Telefono Azzurro, che è una grande istituzione italiana, è stato fondato il Telefono Azzurro dal professor Ernesto Caffo, è diventato poi un punto di riferimento internazionale, è stato fondato nel 1987, e Papa Francesco ha voluto ringraziare l'opera di Caffo e di Telefono Azzurro, che il prossimo 8 giugno celebra i 30 anni. Quindi, diciamo, le celebrazioni sono già partite. E per parlare di questo ruolo dei ragazzini, di come proteggerli, di come sono esposti a queste violenze, io ho con me i microfoni di America 24 proprio il professor Ernesto Caffo. Buongiorno, professore. Buongiorno a voi. Professore, insomma, la settimana scorsa è stata drammatica sotto molti punti di vista. Abbiamo visto, è come se fosse stata una settimana di perfect storm, in cui abbiamo visto tutte le vulnerabilità in casi e situazioni diverse a cui i ragazzini possono essere esposti. Cosa sta succedendo? Ogni giorno i bambini sono vittime di violenze e di abusi. Spesso questi abusi sono invisibili, perché i bambini non riescono a chiedere aiuto, non ne parlano con gli adulti, e talvolta ne parlano invece le cronache. Quando arrivano però alla luce, questi fenomeni sono fenomeni che nascondono un'enorme sofferenza, un disagio di una comunità, che non vede nei bambini dei soggetti che vanno aiutati, protetti, soprattutto quando sono così piccoli che non possono chiedere aiuto in modo indipendente. Ecco, ci sono situazioni poi di diverso genere. Abbiamo visto la settimana scorsa questo attacco terroristico che ha colpito dei ragazzini. Sembra che le vulnerabilità siano aumentate, si sia allargato il campo. Ma come possiamo proteggerci da rischi di questo genere? Ma da una parte credo che è fondamentale dare agli adulti una sostanza maggiore nella protezione dei bambini. Da una parte i genitori devono essere maggiormente consapevoli che proprio in questo mondo oggi occorre essere più presenti accanto ai propri figli nell'insegnare loro i rischi che possono in qualche modo incontrare nel loro percorso di vita. Da una parte nell'ambito di una realtà sociale che sta cambiando, in cui i fenomeni di cambiamento sociale incidono molto anche sulle popolazioni che si spostano da una parte all'altra del mondo, dall'altra parte le tecnologie, che sono sicuramente una grande risorsa, sono e rappresentano anche per i ragazzi un grande pericolo. Ecco, di fronte a queste nuove sfide, purtroppo il mondo degli adulti è impreparato. La cultura dell'infanzia in realtà sta arretrando, che l'attenzione degli adulti a proteggere i bambini, io la vedo in qualche modo scemare, e questo non soltanto nei paesi più colpiti da sofferenze collettive da guerre, ma anche nelle realtà più ricche. I bambini spesso sono dimenticati e, se vogliamo, i bambini sono spesso troppo soli in questo percorso di crescita. Ecco, professore, ma perché questo sta cambiando? Cos'è cambiato in noi, negli adulti? Ma io credo che da una parte si è perso il senso della dimensione della genitorialità, della protezione dei più piccoli. C'è una forte proiezione verso una dimensione più centrata sul proprio sé e non sulla relazione con l'altro, soprattutto quando è debole, quando è fragile, come può essere un bambino. E i bambini stessi, devo dire, molte volte cercano da soli di crescere, talvolta sbagliando, anche crescendo troppo in fretta, in un mondo di adulti, cercando anche molte volte di essere in qualche modo alla ricerca del consenso dell'adulto, diventando quindi grandi molto presto. Professore, siamo in chiusura. Abbiamo capito che c'è una frattura nel rapporto fra gli adulti e i ragazzini. Che messaggio può dare a chi ci ascolta? Sono sicuro che chi ci ascolta oggi in macchina è sicuramente genitore, ha dei figli piccoli, dei figli adolescenti. Ecco, cosa può dire a queste persone che ci ascoltano perché facciano una parte nell'evitare che la frattura ci sia? Ma che oggi è sempre importante ascoltare i bambini, dare a loro delle risposte partendo però dai loro bisogni. Questo è fondamentale, quindi abbracciarli, guardarli negli occhi e pensare che tutti noi siamo stati bambini, quindi dobbiamo investire su di loro. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su mario24.com, seguitemi su Twitter @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Professor Caffo, cosa possiamo proporre come canzone del giorno? Una canzone molto bella è quella di Cat Stevens, Padre e figli, che appunto è una canzone che ci rappresenta su questo tema in modo pieno. Cat Stevens, mi sembra una scelta perfetta, professore. Father and Son, il titolo, un rapporto fra un padre e il figlio che dialogano. Aggiungerei una cosa ai consigli del professore: la sera, quando i vostri bambini vanno a letto, se sono piccoli, leggetegli qualche cosa, leggetegli una fiaba, gli aiuterà a restare bambini per un po' più a lungo, piuttosto che crescere rapidamente e diventare adulti in un mondo pericoloso. It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young, that's your fault, there's so much you have to know. Find a girl, settle down, if you want you can marry. Look at me, I am old but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Ooh. New York è tutto. Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.